figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Bentrovati da Valentina Furlanetto, buona giornata e buona domenica. Parliamo oggi di quei bambini bellissimi ma distanti, chiusi in una torre d'avorio. Così a volte vengono definiti i bambini autistici. L'autismo è un disturbo pervasivo dello sviluppo, il 50% dei soggetti autistici non è in grado di comunicare verbalmente. Per questo penetrare in quella torre d'avorio è per i genitori quasi un miracolo, un sogno dal quale difficilmente ci si vuole risvegliare. È comprensibile quindi il fatto che nei primi anni 90, quando anche in Italia è stata diffusa una tecnica importata dall'Australia che si chiama comunicazione facilitata e permette ai ragazzi autistici di scrivere al computer, ecco, questi genitori davvero pensassero di realizzare un sogno. Il metodo della comunicazione facilitata permette ai ragazzi di scrivere su una tastiera aiutati da un amico, un familiare, un educatore che si chiama facilitatore, il quale non fa altro che appoggiare la mano sul polso, il gomito, la spalla del bambino in modo che questi, supportato sia nel movimento sia emotivamente, scriva. Quando però improvvisamente decine di ragazzini, prima negli Stati Uniti, poi anche in Italia, hanno attraverso la comunicazione facilitata scritto di aver subito degli abusi da parte dei genitori, abusi che poi si sono rivelati falsi, questa tecnica è stata messa in dubbio. Di questo sogno infranto e dell'incubo che ne è seguito parla il libro molto bello edito da Einaudi, Pulce non c'è, scritto da Gaia Raineri. Mia mamma un giorno è andata a prendere mia sorella a scuola e non l'ha trovata, e le è stato detto che mia sorella era stata portata in una comunità perché si riteneva che i miei non fossero più dei buoni genitori per lei. Aveva scritto, tramite questo metodo che si chiama comunicazione facilitata, aveva scritto di aver subito violenze da parte di mio padre e quindi appunto era stata allontanata per questo. In realtà questo metodo non è assolutamente scientificamente attendibile, c'erano già stati dei casi simili sia in America che in Inghilterra, e in America e in Inghilterra sono stati presi dei provvedimenti istituzionali, insomma, in cui si dice che non bisogna procedere quando le denunce sono fatte con questo tipo di metodo, perché non è attendibile, è un modo dell'autistico per attirare l'attenzione, eccetera, eccetera. Quando è avvenuto tutto questo? Lei quanti anni aveva e quanti anni aveva sua sorella? Una decina d'anni fa è avvenuto. Io nel romanzo ne ho 13 e mia sorella ne ha 9. Nella comunicazione facilitata, colui che scrive non è il facilitatore? No, chi scrive è l'autistico, però di fatto hanno provato anche a fare degli studi fra due persone normodotate, diciamo, e di fatto la persona facilitata scriveva i pensieri del facilitatore anche in caso di due persone normodotate, perché c'è proprio un'impercettibile influenza che però fa un lavoro enorme, diciamo. Noi l'avevamo usata perché è sempre molto grande la tentazione per i genitori, per la famiglia, di, come dire, farle tirare fuori cose dal suo mondo sommerso. È sempre una tentazione che c'è in tutte le famiglie, per quanto si sappia che il metodo non è attendibile, però viene da dire, vabbè, ma qualcosina di vero c'è, quindi usiamola. Aveva scritto delle cose anche toccantissime, aveva addirittura trovato un linguaggio, un modo di esprimersi tutto suo, che era caratterizzato proprio da alcune formule anche molto buffe, divertenti, un modo di interpretarsi appunto tutto, che sembrava tutto suo. E che forse non era tutto suo a questo punto. Eh no. Pulce è rimasta lontana dalla vostra famiglia per un tempo anche considerevole. Sì, per quasi un anno. Suo padre è stato ritenuto, è stato scagionato, è ritenuto del tutto innocente e è tornata in casa Pulce. Avete notato un cambiamento in lei? Ma sicuramente sì, lei è molto regredita, però l'interpretazione di Pulce è davvero molto difficile, nel senso che lo stesso gesto può essere interpretato in 10 modi diversi, di questo io ho voluto parlare tanto anche nel mio libro, per cui inevitabilmente a noi sembra che dopo questa storia lei stia malissimo, che stia bene solo a casa, così come a quelli della comunità sembrava che stesse bene soltanto in comunità. La verità è che sicuramente questa storia bene non l'ha fatto, perché gli autistici sono persone estremamente abitudinarie, che usano l'abitudine proprio per rassicurarsi e per imparare nella pratica a fare le cose, hanno bisogno di vedere le cose come sequenza di gesti. Quindi se una persona così tu da un giorno all'altro la togli dal suo contesto e la inserisci in tutto un altro contesto, già quello sicuramente bene non gli fa. E poi forse ha fatto talmente tanto male a noi che anche nel, come dire, a livello di energie che noi usiamo per rapportarci a lei, sicuramente adesso siamo più fragili. Avete avuto un risarcimento di qualche tipo? No, nessuno. Non ci hanno neanche chiesto scusa. Sarebbe stato un danno morale che poteva essere misurabile soltanto dicendo che, non lo so, che i miei genitori erano impazziti, che mio padre era depresso. Avremmo dovuto provare queste cose che non si possono provare, ma oltretutto, anche se fossimo riusciti a provarle, a quel punto, se uno dice di aver avuto un danno psicologico così grande, non è più in grado di lavorare. E i miei genitori sono entrambi medici e non potevano assolutamente, appunto, dimostrare i segnali della minima fallibilità psicologica, perché sennò gli sarebbe stato tolto il lavoro. Com'è vivere con una sorella, un fratello che ha questo disturbo di autismo? Ma è sicuramente una cosa che dà molto. Culce comunica a forza di sorrisi e abbracci, quindi è una cosa anche molto tenera e molto immediata, però di grande soddisfazione, diciamo. Poi certo, in Italia le famiglie sono completamente lasciate sole e non esiste nessun tipo di aiuto, neanche da parte della scuola. Adesso praticamente non ci sono più gli insegnanti di sostegno. Mia mamma in questo momento si stava pagando per mia sorella un'educatrice a scuola, e mia sorella va in una scuola pubblica, però adesso le hanno detto che anche pagarsi un'educatrice è illegale, e quindi mia sorella non può andare a scuola, cioè ci va per 2 ore al giorno. Di questa tecnica, la comunicazione facilitata, abbiamo parlato anche con Daniela Mariani Cerati, che è medico e segretario del comitato scientifico dell'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Noi abbiamo un sito che è www.autismo33.it. Abbiamo dedicato una cosa alla comunicazione facilitata, il titolo è Tramonto di un mito. Pensare che sia un problema motorio che uno gli dà la mano e quello si esprime, già è una cosa che contrasta con quello che si vede, che è evidente, no, nell'autismo. Un bambino che ha un comportamento globale da 2 anni, come se avesse 2 anni, e poi con una manina del cosiddetto facilitatore esprime dei pensieri profondi di alto livello come se fosse un adulto, capito? Così già è una cosa che ha sempre lasciato scettici anche come basi. E il facilitatore, cioè la persona che supporta l'autistico, non interviene, non scrive lui. Purtroppo sì, a volte lo fa in modo subconscio, senza rendersene conto, ma si è visto tutte le volte che si facevano degli esperimenti, no? Perché non è difficile fare un esperimento per vedere se è il facilitato o il facilitatore che esprime il suo pensiero, no? Si mettevano delle cuffie, per esempio, lei può mettere in cuffia e dire, fare una domanda al facilitato e una diversa al facilitatore, e si vedeva che la risposta che veniva sul computer o sulla tastiera, ma adesso ovviamente si usa il computer, era sempre quella data al facilitatore, cioè all'educatore, insomma. Ma il problema è questo: perché ha avuto tanto successo? Perché ha avuto un successo enorme, perché in questo modo, soprattutto nei confronti dei genitori, perché i poveri genitori venivano illusi che il loro figlio avesse delle doti intellettive molto superiori a quelle che sembrava, ha capito? E quindi tu cosa credi? Ti hanno detto finora che è un ritardato? No, è un genio incompreso. E notare che questi bambini poi hanno questa estrema gravità è un aspetto fisico bellissimo, no? Normalissimo. E quindi l'aspetto fisico non ti aiuta ad elaborare il lutto, ad accettare una realtà così grave, e quindi non si rassegnano mai, comprensibilmente, e cercano speranza, la speranza è giustissimo, ma l'illusione e diciamo anche la truffa, no, di farti credere una cosa, è una cosa che dopo poi si, come in questo caso in un modo tragico, assolutamente paradossale, si riversa contro la famiglia, insomma. Quindi è stata una cosa gravissima, oltre all'infamia, ma lei pensi un medico, qualsiasi persona, ma in quel caso il padre era un medico che godeva la fiducia dei suoi pazienti, no? Quel maresciallo al quale lui dava del tu e che improvvisamente non gli può più dare del tu perché ha questo sospetto, no? Perché ha questa condanna infamante. Ma è una cosa terribile, è una cosa gravissima. Prima di chiudere, due premi che riguardano proprio l'attenzione alle tematiche sociali. Il primo è stato consegnato ieri ed è il premio Anello Debole della comunità di Capodarco. Ne abbiamo parlato con Don Vinicio Albanesi, che è il responsabile della comunità, il quale ci ha detto che c'è stata una forte partecipazione. Ma direi che addirittura abbiamo, come si dice, troppa grazia a Sant'Antonio, nel senso che l'attenzione molto alta. Quali sono i temi più toccati e invece quali le tematiche più trascurate dai partecipanti? Dunque, le più affrontate sono la psichiatria, perché fa sempre fascino, e gli stranieri, sia in Italia che all'estero. È un po' in ribasso tutto quello che è il mondo del disagio giovanile, dell'handicap e di quelle famiglie che sembrano normali invece sono in difficoltà, cioè addirittura non dico che si va verso la sensazione, ma si va verso una forma di ciò che in questo momento sulla stampa, sulle notizie prevale. Il 20 novembre invece sarà consegnato il premio Areté per la diffusione della responsabilità sociale d'impresa alle aziende, agli enti e alle istituzioni che nelle loro attività e progetti di comunicazione si sono ispirati a valori di trasparenza, correttezza, sensibilità e attenzione verso i consumatori e gli utenti. Questo è parte della settimana della cultura d'impresa che segna l'ingresso del riconoscimento nella sfera di Confindustria. Ne abbiamo parlato con Alessandro Laterza, presidente Commissione Cultura di Confindustria. È una collaborazione che è nata sul fatto che, essendo il Premier Rete attento soprattutto ai temi della comunicazione sociale responsabile, ci sembrava in perfetta, come dire, sintonia con uno dei grandi temi della settimana della cultura di impresa, che è quello della responsabilità sociale. È una declinazione di un argomento che in questo momento ci sta molto a cuore. C'è stata una forte partecipazione? Sì, anche perché c'è un aspetto molto interessante da considerare, che molto spesso per dare evidenza alle sensibilità che sono diffuse nel sistema di impresa è, come dire, sufficiente dare un pretesto, una cornice, per così dire, una griglia, e queste vengono fuori. Quindi il premio è utile perché appunto fa sì che le imprese si domandino che cosa fanno in questo campo, e devo dire che le proposte sono veramente tante, quindi è importante per questo, perché crea, come dire, un'occasione in cui si possono mettere anche a confronto una pluralità di considerevoli di esperienze. Ed è tutto per questo appuntamento. Vi ricordo domenica prossima, sempre 14:15, sulle frequenze di Radio 24. Buona giornata da Valentina Furlanetto.